Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buonasera, buona Pasquetta a tutti. Speriamo che abbiate trascorso bene questo fine settimana e anche questa giornata, posto che se vi trovate al nord come ci troviamo noi, il tempo non era un granché, sta migliorando rapidamente, ma anche questa è una tradizione di Pasquetta. A Pasquetta, lo sapete bene, fa brutto tempo. Buonasera da Simone Spezia, dunque benvenuti a questa puntata di Focus Economia. I nostri contatti sono i soliti, rimangono sempre quelli, anche oggi in un giorno di festa, il 349-238-6666 per gli sms, tanto quanto per i messaggi su WhatsApp. Quello che non è uguale al solito è la durata della trasmissione. Oggi ci interromperemo alle 18, poi ci sarà il giornale radio e poi arriverà Alessio Maurizi con un'edizione appunto festiva di questo lunedì di Si può fare. Di che cosa parleremo oggi? Beh, allora, parliamoci molto chiaramente, la giornata non è che sia ricchissima di spunti dal punto di vista della stretta cronaca e quindi abbiamo deciso in questa giornata di andare ad approfondire qua e là qualche argomento di attualità economica. Il primo che toccheremo è quello che riguarda il mercato del lavoro, ma non il mercato del lavoro in genere. Parleremo dell'occupazione giovanile. In che chiave? Nella chiave di Garanzia Giovani. Cos'è Garanzia Giovani? Garanzia Giovani è un progetto europeo che prevede uno stanziamento per quanto riguarda l'Italia piuttosto ampio, si parla di 1,5 miliardi di euro, l'iscrizione ad un portale, la possibilità per i giovani di essere avviati ad un percorso formativo da una parte, oppure di tirocinio, oppure di lavoro. Ebbene, i dati che sono arrivati fino adesso ci dicono che a 2 anni dall'avvio di questo progetto, di questo Garanzia Giovani, il Ministero tra l'altro ha intenzione di far partire una sorta di fase 2 e vedremo di capire che cosa vuol dire, in sostanza non ha funzionato. Il lavoro l'hanno trovato in pochi, da questo punto di vista c'è poco da fare, nonostante ci fossero dei benefici in termini soprattutto di costo del lavoro. Evidentemente c'è qualche meccanismo che non va in questo sistema, che va resettato, va risistemato, va ripensato, perché i dati appunto ci dicono esattamente questo. Gli ultimi sono quelli diffusi dall'ISFOL, che in realtà fa un monitoraggio costante, così come lo fa il Ministero del Lavoro, e di questo va dato atto oggettivamente. Su questo c'è stato un bel lavoro di trasparenza. L'obiettivo è aiutare gli under 30 a trovare lavoro, appunto questo non si riesce a fare. 1 milione di giovani si sono iscritti al programma, solo 32.000 hanno trovato un lavoro vero e quindi siamo intorno al 3,5, se vogliamo arrotondare al rialzo circa il 4%, moltissimi tirocini, anche se comunque relativamente pochi, un po' di avviamenti a formazione, e lo stesso Ministero sta pensando a qualche correzione, perché poi i dati da questo punto di vista sono incontrovertibili. Ci occuperemo di una vicenda che è tipica di burocrazia italiana. Ne parlò già il Sole 24 Ore un paio di settimane fa, ci è ritornato poi il Corriere della Sera con un ampio pezzo a firma di Gian Antonio Stella in questo weekend, ed è una vicenda che riguarda il trasporto con i container. Come sapete, gran parte della merce ormai transita con dei container che vengono caricati sulle navi e poi in caso di intermodalità possono essere caricati direttamente su dei vagoni oppure su dei camion. Ebbene, che cosa succede? Succede che questi container possono pesare tra le 18 e le 28 tonnellate. Che cosa è successo? Che dei solerti tecnici del Ministero hanno deciso di imporre una soglia di tolleranza di peso. Questa soglia di tolleranza di peso però è di 20 kg su un peso che può arrivare alle 28 tonnellate. Vuol dire che se tu sgarri dello 0,0 71% il peso, e sostanzialmente questo container non va più bene. Parleremo col collega del Sole 24 Ore che se ne è occupato e che si occupa di tutte queste cose, che è Raul De Forcade, e vedremo anche di capire se qualcuno vuole intervenire da questo lato. Infine chiuderemo occupandoci più in generale dell'economia italiana. Insomma, è inutile nascondercelo. Ci aspettavamo tutti e speravamo tutti, perché poi alla fine, se, a prescindere che si sia filo governativi, antigovernativi o quel che volete, insomma, speravamo tutti che questo 2016 partisse un pochino meglio dal punto di vista economico, così come ci aspettavamo che il 2016 andasse un pochino meglio, che il 2015 si chiudesse un pochino meglio. Ci sono dei fronti che generano un po' di preoccupazione, sono quelli ovviamente che riguardano i conti pubblici. Oggi il vice ministro dell'economia Morando è tornato a smentire la necessità di una nuova manovra. Di certo quello che ci si prospetta davanti è un periodo piuttosto complesso, soprattutto in questa fase nella quale deve essere definito, scusate il gioco di parole, il DEF, il documento di economia e finanza, che poi è quello che precede, che mette le premesse economiche per quella che sarà la legge di stabilità. Bisogna chiarire cosa c'è, qual è il perimetro, bisogna disinnescare le clausole di salvaguardia, cosiddette clausole di salvaguardia, che sono degli innalzamenti di tasse automatici nel caso non si raggiungano certi obiettivi di bilancio, e sono stati stabiliti negli anni passati nelle manovre finanziarie, nelle leggi di stabilità precedenti, perché ormai le leggi di stabilità devono proiettarsi su un arco di 3 anni, e quindi magari ti ritrovi 3 anni dopo con anche una clausola di salvaguardia fondamentalmente stabilita da un altro governo, e che però devi disinnescare, che valgono quest'anno una decina di miliardi tra, o meglio per l'anno prossimo, per il 2017, tra rialzi di IVA e via dicendo. Quindi arriviamo in questo quadro e con una situazione piuttosto complessa, con una situazione dell'inflazione che non migliora e anzi peggiora, rischia di peggiorare lo stato dei nostri conti pubblici, e una crescita economica le cui prospettive il governo si prepara ad abbassare proprio nel documento di economia e finanza, che di certo non è brillantissima. Si parla di una crescita di un più 1,3% secondo le previsioni del governo per quest'anno, che insomma è una crescita dignitosa, ma certamente dopo quello che abbiamo passato e dopo questa recessione così profonda non è certo qualcosa che basta. Questi saranno i 3 temi di oggi. Non ci sono i mercati, non parleremo di mercati perché le borse sono chiuse. Vi ricordo gli altri numeri, il 349-238-6666 per gli sms, così come per i messaggi su WhatsApp. Le notizie in breve di oggi. Allora, l'oro a $1,220 l'oncia, un più 0,33%, in lieve calo il petrolio, che però si conserva in questo periodo complessivamente intorno ai $40 al barile, siamo appena sotto a 39. 39,06 in questo momento per il WTI con consegna a maggio, e il Brent è sopra, sempre con consegna a maggio, a $40,4 al barile. Anzi no, appena sotto, scusatemi, 39,8. Guardato la colonna sbagliata. La Giordania, e visto che siamo in tema di energia rimaniamo, ci ha chiesto alla Russia di considerare la possibilità di avviare forniture di gas naturale liquefatto a prezzi di favore attraverso il gruppo Gazprom. La proposta è contenuta nelle misure del terzo incontro della Commissione Intergovernativa Russo-Giordana, verificate dalla TASC, l'agenzia di stampa russa. Vedremo cosa risponderà Mosca. Sui conti pubblici, Lo dicevamo, c'è un'intervista ad affariitaliani.it del vice ministro dell'economia Enrico Morando. Dice Morando: non c'è bisogno di manovre correttive, c'è bisogno invece di seguire con grande attenzione l'evoluzione della situazione economica e quindi anche dei conti pubblici, perché è chiaro che siamo in una situazione dove gli elementi di instabilità e quindi di incertezza si vengono accentuando. Per il momento non ci sono elementi nuovi, aggiunge Morando, può essere che, come ci siamo impegnati a fare, qualcosa accada più avanti nei prossimi mesi, ma ad oggi non ci sono novità. C'è probabilmente tra gli elementi di incertezza ai quale parla il vice ministro c'è tutto, anche tutto il tema delle banche, evidentemente, di come andranno le fusioni, soprattutto lo smaltimento dei non performing loans, ossia dei crediti deteriorati. E a proposito di banche, è di oggi un editoriale del Financial Times dedicato proprio alle banche italiane. Dice l'FT che con la fusione tra BPM e Banco Popolare si apre la strada al consolidamento del settore. E però le richieste della BCE arrivate alla Banca Centrale Europea nel suo ruolo di supervisore su capitale e governance ha lasciato gli attori del mercato preoccupati per eventuali prossime operazioni. Financial Times intervista anche, o almeno parla, con Davide Serra, il fondatore e amministratore delegato di Algebris e, come ben sapete, piuttosto vicino al Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Il sistema italiano, ha detto Serra, ha bisogno di maggiore consolidamento perché ha più banche che pizzerie e ha detto l'azione della BCE ha destabilizzato la fiducia del mercato. Attenzione dunque rivolta a tre attori secondo l'FT in questo momento: UbiBanca, con la quale sono saltate trattative tanto con la BPM quanto con Banco Popolare, e anche Monte dei Paschi di Siena, oltre che la genovese Carige, MPS Carige per l'esattezza, scrive l'FT, stanno cercando compratori. Ancora a proposito di banche, la Popolare di Vicenza, l'assemblea, la prima da SPA in questo fine settimana, ha respinto la proposta di promuovere un'azione di responsabilità nei confronti di quegli amministratori, sindaci e direttori generali che dovessero essere individuati come responsabili del dissesto dell'istituto. Si è astenuto il 43,2%, ha votato a favore dell'azione di responsabilità il 38,05% e contro il 18,6%. E qua c'è da riportare un'altra dichiarazione di un altro vice ministro dell'economia, Enrico Zanetti, il quale dice: da esponente politico veneto e uomo di governo non ho avuto dubbi nel dire con chiarezza che sarebbe stato folle da parte dell'Assemblea votare contro la trasformazione della banca in società per azioni, da Banca Popolare a società per azioni. Per la stessa ragione non ho dubbi nel dire oggi con altrettanta chiarezza che è stato folle da parte di quella stessa Assemblea non votare a favore di un'azione di responsabilità contro i precedenti vertici. Sono esterrefatto, queste le sue parole. Va bene. Poi abbiamo, i dati di Pasqua ve li do, ma si parla di una gita fuori porta per 8 milioni di italiani, lo stima la Coldiretti. Sarebbe interessante sapere la fonte di queste analisi. Sempre secondo Coldiretti gli italiani hanno speso 1 miliardo e 300 milioni a tavola, restando nell'83% dei casi tra le mura domestiche. E anche qua, fonte quantomeno demografica, se è un sondaggio non è non è chiarissimo. Comunque, questo è quello che scrive Coldiretti. Veniamo al primo tema di giornata, dunque, garanzia giovani. Dunque, si diceva, e già qualcuno ci scrive, Carlo da Vicenza ci dice, ragazzi vengono pagati dopo mesi e quindi sono disincentivati ad aderire a questo programma. Vedremo, ne parleremo tra un attimo più approfonditamente con qualcuno che ne capisce più di me. Innanzitutto inquadriamo il tema di garanzia giovani. Siamo a 2 anni dal lancio, è un programma nato per aiutare gli under 30 a trovare un lavoro. L'Italia è un programma europeo, l'Italia ha deciso di estendere garanzia giovani ad età più avanzate, appunto agli under 30, anche se l'attenzione, così ha fatto sapere il Ministero quando l'ha lanciato, resta per le persone, per gli under 25 più o meno. E poi ci sono i dati diffusi dall'ISFOL, che è l'ente pubblico di ricerca che dipende dal Ministero del Lavoro e che si occupa proprio di elaborare questi dati anche. 1 milione di giovani si è iscritto al programma, 32.000 hanno trovato un lavoro vero. La distanza è netta, parliamo di un 3,7%. E poi c'è un grande tema, spesso l'abbiamo affrontato, l'abbiamo scritto anche sul Sole 24 Ore, c'è un problema di burocrazia, come al solito, che disperde in mille rivoli il 1,5 miliardi di dote per questo programma. Maurizio Ferrera, professore di scienza politica presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Milano, editorialista del Corriere della Sera e molto si è occupato di questi temi. Professor Ferrera, bentornato ai nostri microfoni, buonasera. Buonasera a voi. Allora, lei già un anno fa, no, diceva, anzi esattamente un anno fa, diceva, finora il programma è stato lanciato da 2 anni, un'esperienza deludente. Ci spiega quali sono gli snodi che rendono non funzionante questa garanzia giovani? Sì, innanzitutto bisogna fare una precisazione su chi sono i potenziali beneficiari, gli interlocutori di questo programma. Non sono tutti i giovani under 30 in cerca di lavoro, sono i cosiddetti NEET, cioè i giovani che non sono più a scuola, non sono più nel canale formativo e non lavorano, sono inattivi. Quindi stiamo parlando di quella popolazione giovanile oggettivamente più difficile da inserire nel mercato del lavoro, perché ha abbandonato gli studi e non ha mai avuto esperienze lavorative, probabilmente non sa nemmeno come ci si può far coinvolgere appropriatamente nel mercato del lavoro. L'Italia ha deciso di dare priorità a questa popolazione, sapendo quindi sin dall'inizio che la sfida sarebbe stata molto, molto alta. E perché ha deciso di dare priorità a questa popolazione? Perché il numero di giovani che non studiano e che non lavorano nel nostro paese è altissimo. Si parla di più di 1,5 milioni di giovani tra i 18 e i 30 anni. Una delle quote più alte d'Europa. E quindi è sembrato giusto cominciare da lì. Proprio perché si è cominciato da lì, però non si poteva nemmeno avere delle aspettative troppo alte. Il solo fatto che 850.000 di questo 1,5 milioni di giovani che non studiano e non lavorano si sia registrato al programma Garanzia Giovani e che una buona parte di questi giovani siano stati intercettati, profilati, in qualche modo coinvolti, adesso poi vedremo in che cosa, secondo me è un aspetto che non è da buttare via. Sì. Poi è vero che, l'effettivo inserimento... Le dice, professore, intanto abbiamo i dati, abbiamo la possibilità di inquadrare meglio queste persone, capire anche a cosa sono interessate. Poi i dati, io non, questo non manco mai di dirlo, i dati sono la vera ricchezza appunto da questo punto di vista, perché uno poi può eventualmente intervenire con politiche più puntuali, no? Chiaramente. Quindi questo è un elemento positivo. Però, ripeto, dal punto di vista dei risultati, professore, in una fase di... in una situazione economica come quella che stiamo vivendo e come quella che abbiamo attraversato, è chiaro che la delusione è forte, insomma. Sì, e in parte giocano anche i fattori che ha segnalato lei. Qual è l'attore che si è fatto carico di questa enorme sfida e che avrebbe teoricamente dovuto, che deve teoricamente facilitare l'inserimento lavorativo di questi giovani? Il servizio pubblico per l'impiego. Sappiamo che il servizio pubblico per l'impiego è uno dei comparti meno efficienti, un po' più in ritardo della nostra amministrazione. Peraltro è vero, ci sono molti sprechi, ma i dipendenti dei servizi pubblici sono pochi rispetto ai numeri degli altri paesi, dei paesi con cui ci confrontiamo, Francia, Germania, Gran Bretagna. Quindi se, come dire, teniamo conto dello stile eccessivamente burocratico e formalista, dei numeri ridotti, di scarse competenze e scarse esperienze da parte di chi opera nel settore dei servizi per l'impiego, la delusione è presto spiegata. Sì. Teniamo anche però conto di un'altra cosa: adesso non è che il lavoro debba essere trovato tutto dai servizi per l'impiego. Noi stiamo parlando di inserire nel mercato del lavoro persone con bassissime qualifiche e scarsissima motivazione in molti territori dove l'economia non tira, dove, come dire, non c'è impresa, non ci sono attività, dove alcuni settori, pensiamo al turismo, funzionano solo pochi mesi l'anno. Quindi questo problema diciamo, rende tutto più complicato, non solo dal punto di vista dell'intermediazione, servizi pubblici per l'impiego finanziati dalla garanzia giovani, ma anche dal punto di vista della domanda di lavoro, da parte delle imprese. Sì. Ce n'è poca. Senta, professore, proprio a proposito di questo, secondo lei non potrebbe essersi anche innescato un meccanismo, chiamiamolo così, di concorrenza tra garanzia giovani e i vantaggi che offre alle aziende in termini di costo del lavoro e la decontribuzione così forte che abbiamo avuto nel 2015? Sicuramente, concorrenza direi di no, perché come dire, cioè non so come dire, professore, intendo questo: magari preferisco assumermi un trentenne con un filo più di esperienza, con una decontribuzione per 3 anni molto forte, piuttosto che prendermi, come diceva lei, una persona non particolarmente motivata, magari con scarsissima esperienza, no? Dovendo scegliere come azienda. Sono d'accordo, è possibile che si sia verificata una dinamica di questo genere, però vorrei aggiungere un aspetto che la ricerca, sulla quale la ricerca dell'ISFOL, almeno i riassunti che ho letto io, non è sufficientemente chiara. Oltre a, come dire, trovare un lavoro, lo scopo della garanzia giovani è anche quello di, come dire, incrementare, migliorare la formazione di queste persone. E quindi sarebbe sbagliato valutare il successo di garanzia giovani solo in termini di inserimento in posti di lavoro. E quindi a questi 32.000 casi di inserimento lavorativo effettivo bisogna aggiungere le centinaia di migliaia di altri casi in cui a questi giovani sono stati offerti tirocini formativi, che naturalmente sappiamo in Italia hanno luci ed ombre e che comunque sono meglio di niente, e questo è il dato che non è visibile, molti sono stati rimandati a scuola. Cioè, siccome il problema è lo scollegamento di questi giovani sia dal mercato del lavoro che dalla scuola, dall'istruzione, dai sistemi di formazione, il rimandarli a scuola e quindi il fargli recuperare ritardi di competenze di istruzione è comunque un qualche cosa che potrà in futuro aiutarli a superare questo deficit di ingresso. Certamente, certamente. Infine, professore, secondo lei quali possono essere le linee di correzione del programma Garanzia Giovani anche per renderlo più efficiente? Immagino che appunto il tema dei centri per l'impiego sia centrale da questo punto di vista. Sì, guardi, i punti di correzione, le dico quale deve essere secondo me il messaggio generale, e cioè andare a isolare, identificare e isolare quei casi, e ce ne sono tanti, lo dimostra la ricerca dell'ISFOL, anche nelle regioni meridionali, per esempio ce ne sono molti in Sardegna, persino in alcune aree della Sicilia, in cui i servizi per l'impiego sono riusciti a istituire legami, partnership con attori privati, non solo attori privati di intermediazione, lavoro interinale, eccetera, ma anche le stesse imprese, le associazioni degli imprenditori locali. E quindi si è costruito, come dire, un circuito multiattore che ha dato prova di saper risolvere o comunque affrontare efficacemente questo problema. Allora bisogna capire perché in alcuni casi ci sono stati dei successi anche in termini di organizzazione del servizio, quali fattori hanno giocato positivamente, e a questo punto come può la regione, o meglio ancora la cabina di regia del Ministero, favorire la istituzionalizzazione, il consolidamento e anche la diffusione, la moltiplicazione di queste pratiche virtuose. Noi questo non lo sappiamo fare, abbiamo una scarsissima tradizione di monitoraggio, di valutazione, di apprendimento su cosa funziona, cosa non funziona e perché nella pubblica amministrazione. E molto spesso difficoltà, anche una volta che siamo riusciti ad analizzare in una maniera corretta, una difficoltà appunto ad applicare pratiche, come dire, di altri luoghi a luoghi diversi dell'amministrazione. Questo è storico. Certo, per non parlare, storico, come dire, anche dell'eccessivo formalismo che spesso imbriglia le nostre pubbliche amministrazioni, per cui conta maggiormente seguire la procedura e, come dire, portare una pratica a conclusione amministrativa piuttosto che a un risultato effettivo. Ecco, quando parlavo di luci ed ombre, noi sappiamo che c'è sia questo, cioè la sopravvivenza di questi atteggiamenti, di questi orientamenti non orientati alla soluzione dei problemi, ma anche delle sperimentazioni e dei segnali di innovazione che, come dicevo, vanno colti e coltivati. La ringrazio, grazie al professor Maurizio Ferrera, professore di scienze politiche alla facoltà di scienze politiche dell'Università Statale di Milano, editorialista del Corriere della Sera, grazie per averci aiutato a fare un punto su tutto questo. Dico a Marco da Milano, che ci scrive via sms al 349-238-6666, che quello, come avrà capito, è tutto un altro discorso. Lui ci scrive: mio figlio 25 anni, laureato in fisica, è andato a lavorare in Svizzera, fidanzata 25 anni, laurea in fisica, adesso andrà in Inghilterra, mi spiace che i due si separino. Detto ciò, come ha capito, qua stiamo parlando di tutt'altro. Spesso anche di persone non laureate e molto demotivate. Qualcuno ci fa notare, abbiamo detto che ci sono le borse chiuse, qualcuno me lo scrive su WhatsApp, tra l'altro prendendola malissimo. Allora, le borse sono chiuse in Europa e aperta invece negli Stati Uniti, è vero. Non una performance eccitantissima, e quindi vi chiedo scusa se l'ho messo prima, però la performance non è eccitantissima, un più 0,02% per il Dow Jones, lo Standard & Poor's che cede lo 0,02%, lo Standard & Poor's 500, e Tokyo stamattina, già che ci siamo, ha chiuso il rialzo, più 0,77%. Abbiamo chiuso col professore parlando di burocrazia, dei problemi della nostra burocrazia e del nostro settore pubblico, che spesso non riesce ad applicare, consentite l'espressione inglese, le best practices delle altre amministrazioni pubbliche, cioè un'amministrazione pubblica fa bene e quell'altra non riesce a trascinare quella buona pratica dell'amministrazione che ha fatto bene nella sua. Questo è un fatto che spesso accade in Italia. Guardate solamente a livello locale, ci sono comuni che da questo punto di vista, per esempio sull'utilizzo dei dati, ma non solo, fanno tantissime cose, e altri comuni che non riescono ad importare quella che è una semplice pratica, cioè non richiede nemmeno un'innovazione tecnologica particolare. Ebbene, parliamo di burocrazia tra un attimo, lo facciamo appunto con Raul De Forcade, collega del Sole 24 Ore, per una vicenda che riguarda, come vi dicevamo in apertura, il peso dei container. La soglia di tolleranza è stata messa a 20 kg per container che possono pesare 28 quintali. La cosa scatta al 1 luglio, ci sono gli operatori letteralmente nel panico. A tra poco. Focus Economia. Ed eccoci di nuovo, 349-238-6666, ci state scrivendo via sms. Attenzione, io non ho mai detto che a Garanzia Giovani non si possono iscrivere i laureati. Mai detta questa cosa. Ho sentito cosa ha detto il professor Ferrera, ma poi insomma due cosette me le ero studiate anch'io. Lo so benissimo che ci possono accedere solamente i laureati, anche i laureati. Parliamo in termini di prevalenza, ma comunque anche su questo sarebbe interessante, come ci diceva il professore, insomma abbiamo una mole di dati straordinaria a questo punto su questi giovani che si sono iscritti, sarebbe anche interessante vedere effettivamente quanti sono i laureati che si sono iscritti, quanti non laureati, un'apertura di dati maggiore anche per decidere meglio come muoversi poi. Allora. Raul De Forcade, buonasera. Sì, buonasera. Del Sole 24 Ore. Dunque, parliamo di questa vicenda dei container che tu avevi già sollevato sul quotidiano, sul Sole 24 sì. Ore, che poi è stata ripresa nel fine settimana dal Corriere della Sera e che è fonte di grande preoccupazione per gli operatori di settore, perché dal 1 luglio scatta sostanzialmente questa regola. Ho detto quintali, qualcuno me lo scrive via sms, intendevo tonnellate naturalmente. Scatta questa regola per cui, innanzitutto, da quel che ho capito, Raul, i container, e per l'Italia parliamo di quanti, di che numeri parliamo più o meno per l'Italia? Innanzitutto parliamo dei container in export, sì. In questo caso, e quindi parliamo di circa 2,5 milioni di container. 2 milioni e mezzo di container che vanno pesati uno per uno e va verificato se sforano di 20 kg... Sì. Il massimo consentito, se sforano di 20 kg il peso consentito per attrezzi che pesano tra i 18 e le 28 tonnellate, no? O mi sbaglio? Sì, no, è vero, questo è proprio il problema, diciamo, ed è un problema un po', diciamo, burocratico, di quelli che, in cui spesso si invischia l'Italia, che a volte invece fa anche bene su certe regole, ma a volte gli capita di invischiarsi in questi problemi burocratici, mettendo da a volte delle normative più stringenti di quelle magari richieste. Certo, ci spieghi come nasce, Raul, tutta questa vicenda? Sì, la vicenda è interessante perché nasce da un'esigenza reale, no? Perché con queste grandi nuove porta container che si stanno sviluppando sempre di più, con numeri di container enormi, eccetera, a bordo, è diventato un problema il carico. Per cui alcune grandi portacontainer si sono spezzate proprio per problemi di posizionamento del carico sulla nave, in condizioni di tempesta ovviamente, di situazioni di mare molto, molto gravi, insomma molto difficili, si sono spezzate. L'IMO, che è l'associazione mondiale che guarda la sicurezza, dell'International Maritime Organization, che vigila sulla sicurezza, ha detto qua c'è un problema di caricamento, diciamo, delle navi. Quindi quando vengono caricati i container, a volte questi container hanno un peso indicato che invece non è poi quello reale, e quindi alla fine si carica la nave più di quello che la nave potrebbe reggere. Ecco, io la dico, la semplifico, non è così semplice, ma diciamo è più o meno così il nocciolo. E allora si è detto, bisogna trovare un sistema per pesare questi container in modo che non sforino di troppo, ecco, sì. E in modo che le navi possano essere caricate con un peso che è consono a quello che gli consente di navigare in sicurezza. E quindi questo, diciamo, è una partenza positiva, voglio dire, che però poi innesta dei problemi molto gravi, sì. Perché questi problemi sono soprattutto problemi che riguardano i caricatori delle merci, che sono quelli che sono responsabili del container e devono dire quanto pesa il container, insomma, ecco. Sì. Un po' come quando arriviamo in aeroporto, i nastri trasportatori dove appoggi la valigia per vedere che non pesi troppo, esatto. Per la cabina, in sostanza. Sì, prego. Esatto, allora esattamente così. Allora si è detto, troviamo un modo per pesarla. Ora, il fatto è che in Italia, a differenza di quello che succede in altri paesi UE, che sono in difficoltà comunque anche loro, diciamoli, su questo, rispetto a questa norma, ecco, ha detto, ma usiamo le pese a raso. E questo è innestato, usiamo le pese a raso, quindi diciamo, cosa dobbiamo fare per pesare intanto un container con la pesa a raso? Tanto per cominciare dobbiamo pesarlo due volte, no? Dobbiamo far passare il camion col container sulla pesa a raso e poi farlo passare vuoto e capire quanto pesava il container, no? Per dire, sì. Questo per dirlo semplicemente, però esistono invece delle altre gru che forse stanno adottando altri paesi di un altro sistema di pesatura, che sono invece le pese dinamiche, che consentono di pesare il container nel momento in cui si solleva dalla gru. Sì. E queste che è il momento giusto, perché ti permetterebbe di velocizzare tutto quanto, perché sennò c'è da diventare pazzi, cioè 2,5 milioni di container in export che devi pesare uno per uno facendo passare il camion prima a pieno e poi a vuoto. Okay. Sì. Ecco, però poi il vero problema è invece proprio sulla tolleranza, quello che tu facevi giustamente notare, il problema è sulla tolleranza, che mentre in Europa tendono ad essere un po' più larghi, diciamo, cioè si pensa che ci può essere una tonnellata di tolleranza, ad esempio, su un container, noi siamo stati molto più stringenti nel dettare le regole e abbiamo detto, c'è stato un parere, diciamo, un chiarimento che è venuto dal MISE, del Ministero dello Sviluppo Economico, che è organo competente sull'argomento, che dice non si può sforare oltre i 20 kg. Mm. E questo comporta un ulteriore problema, perché insomma 20 kg sono proprio pochi. È lo 0,07% di ogni container, in sostanza. E questo chiaramente crea un problema ulteriore, perché insomma è facile sbagliarsi, anche perché le pese a raso non si sa come calibrarle, non si sa dove siano, non si sa come fare a mettere questi container su queste pese. Sì, da proprio l'idea di una regola come imposta da qualcuno che è chiuso in una stanza di un ministero e che non sa come funziona. Ma in un certo senso sì, anche se è vero che il problema è serio, perché la norma internazionale, quindi prima o poi si deve applicare, insomma anche il 1 luglio dovrebbe entrare in vigore, dico dovrebbe perché non è solo l'Italia in difficoltà, per la verità ci sono altre nazioni e quindi può darsi che la cosa alla fine slitti, però ecco anche le altre nazioni sono in difficoltà, ma spesso trovano soluzioni, come in questo caso, un pochino più flessibili di certo. Quelle italiane. Certo, Raul, per chiudere ti porterei sulla preoccupazione degli operatori da questo punto di vista, immagino che tu insomma lì più o meno li senta, se non quotidianamente, quantomeno abbastanza spesso, perché ti occupi di queste cose. Che sensazione hai avuto? No, la sensazione è proprio questa, che ci sia una grossa preoccupazione, perché dicono, se davvero entrasse il 1 luglio, diciamo, questa cosa creerebbe un problema enorme proprio dal punto di vista logistico, perché non potrebbero essere caricate le navi senza aver pesato i container, eccetera eccetera. Come dicevo, c'è qualche speranza, perché gli operatori sperano, anche perché a livello internazionale questa cosa sta muovendo molto interesse, ecco, sperano che forse questa norma sia in qualche modo rimandata, ma la cosa migliore sarebbe che il ministero competente pensasse a rivedere un attimo attimo i suoi schemi e magari prendesse esempio, non lo so, dall'UK o dalla Danimarca, dal Regno Unito, dalla Danimarca, che stanno pensando ad altri tipi di pesatura, come appunto queste pese dinamiche che semplificherebbero le operazioni, ecco, magari con tolleranze maggiori. Ti ringrazio, grazie a Raul De Forcade del Sole 24 Ore per essere stato con noi, per averci dato i chiarimenti su questa vicenda, un classico caso, come diciamo, di burocrazia italiana. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi parliamo invece di economia italiana, perché è in arrivo il DEF, il documento di economia e finanza, insomma arriverà a breve e contiene una previsione al ribasso della crescita, c'è qualche preoccupazione che riguarda i conti pubblici, a tra poco. Pantera col TH, l'IRP di Infracom Italia, anche in cloud. Vi presenta Focus Economia. Ed eccoci di nuovo, sempre con il 349-238-6666 per i vostri sms, così come per i messaggi su WhatsApp. Qualcuno ci dice lo 0, moltiplicato per tutti i container fa tanto peso sulla nave, avrà pure ragione, però forse insomma un modo migliore per risolverla si può trovare. Il governo sta ragionando sul DEF, il documento di economia e finanza, in vista dell'approvazione attesa entro il 10 aprile. Si ipotizza una crescita ridotta all'1,3% per l'anno in corso, un deficit PIL attorno al 2,3%, ma con tantissime incognite. La crescita, l'inflazione, o meglio la deflazione. Vogliamo fare un punto su tutto questo, lo facciamo con Francesco Daveri, docente di politica economica all'Università Cattolica di Piacenza, editorialista del Corriere della Sera. Professor Daveri, buonasera. Buonasera. E benvenuto. Allora, primo punto, la faccio molto piatta e semplice. Ci aspettavamo, o meglio, speravamo tutti, in una fine del 2015 migliore e in un attacco del 2016 migliore, invece già adesso ci troviamo a ragionare, come dire, sulla parte bassa dell'1, cioè un 1,3%. Mi sembra, alla fine, dovendo riassumere tutte le questioni che ci sono in campo, questa quella principale, no? Ma io in realtà penso che si debba ragionare purtroppo anche più al ribasso dell'1,3 a cui sta pensando il governo, perché mi sembra che vari istituti, tra cui l'Ocse, ma poi anche Fitch e Prometei, hanno già indicato per il 2016 un più 1%. E da qualche conto che ho cominciato a fare, senza avere un ufficio studi, insomma, che lavori per me, ma proprio con un foglio Excel, i numeri che a me vengono fuori sono dei numeri anche più bassi dell'1%, perché di fatto per avere una crescita dell'1,3% dovremmo crescere tra lo 0,6% e lo 0,7% nel secondo, terzo e quarto trimestre. Cioè ogni trimestre deve fare più 0,6% o 0,7% rispetto a quello precedente. E, quindi lei già vede, lei già vede lo 0, per il 2016? Beh, insomma, a me i conti che vengono, se facciamo come nel 2015, che vuol dire mediamente un più 0,25 in ognuno dei quattro trimestri, quindi stando già larghi, perché in realtà abbiamo fatto 0,1 nell'ultimo trimestre 2015, a me viene più 0,7, quindi i numeri sono così, secondo me. Poi naturalmente può essere che il governo abbia delle stime migliori e questo lo apprenderemo. Lo apprenderemo. Questo è il punto, ecco, e diciamo, questo mi sembra, professore, il vero tema, al di là di tutti i ragionamenti appunto che riguardano i conti pubblici, anche perché poi sono strettamente collegati evidentemente, no? Sì, beh certo, il DEF ogni anno è un po' potenziale libro dei sogni, perché naturalmente è il momento in cui il governo mette le stime ufficiali per la crescita e anche e soprattutto la stima che su cui poi l'Europa ci valuta e l'impegno su cui il governo mette la faccia per quanto riguarda il deficit pubblico per l'anno che deve venire, quindi per il 2017. Quindi ovviamente c'è molta attenzione su questo, il governo ha bisogno da un lato di garantire che l'Europa veda una continuazione della riduzione del deficit rispetto all'anno precedente e poi nello stesso tempo però deve cercare di dare respiro all'economia. Quindi è un sentiero stretto e quindi quello che probabilmente il governo starà cercando di fare è di scendere un pochettino sotto al 2,5, ammesso che il 2,5 ci venga validato da Bruxelles nell'esame di maggio, e nello stesso tempo però non vuole scendere troppo al di sotto di questo, perché sennò teme di strozzare la ripresa nella culla. Anche perché tra l'altro, insomma, nelle valutazioni che si faranno e che riguarderanno chiaramente il 2017, c'è da tener conto, lo dicevamo prima, delle clausole di salvaguardia che valgono, se non sbaglio professore mi corregga, una decina di miliardi complessivamente, e che vanno disinnescate dal governo, no? Se non ricordo male mi pare che valgano addirittura 16 miliardi, però insomma sicuramente più di 10, ecco, quindi quelle vuol dire che se non succede niente, se il governo non trova le risorse, altre risorse per far fronte al deficit 2016-2017, scatteranno questi aumenti di imposta automaticamente. Naturalmente è auspicabile che ciò non succeda, perché poi si tratterebbe di aumenti di accise, imposte indirette, insomma le cose che colpiscono i consumi direttamente, e che invece sono la fonte della crescita, del po' di crescita che abbiamo avuto, quindi deve trovare queste risorse prima di tutto, prima di pensare a ogni altro piano di eventuali aumenti per la spesa sociale, piuttosto che riduzioni di imposte, investimenti pubblici. Senta professore, oggi il vice ministro dell'economia Morando dice non ci sarà bisogno di manovre correttive, ma dai numeri anche ci sta fornendo lei, un filo di preoccupazione in più ci viene. Ma io in realtà penso che l'Europa non sia tanto interessata a imporci manovre correttive, perché non è questo, credo, la cosa. Ciò che l'Europa vuole è che si prosegua sulla strada che per un paese come il nostro è un po' obbligata, cioè con 132,5% di rapporto debito-PIL non è che possiamo fare delle politiche, diciamo, spendi e spandi, perché questo appartengono al passato, insomma, queste politiche. Quello che dobbiamo fare è di proseguire sulla strada di ridurre un po' il deficit e far scendere nel corso del 2016 anche di un decimo, due decimi di punti percentuali il rapporto debito-PIL, per poi pian piano andare avanti nel corso del tempo. Non ci chiederanno di strozzarci, cioè non ci chiederanno di fare delle correzioni in corso d'opera, non mi aspetto questo, però ci chiederanno di riprendere a far scendere il deficit, deficit strutturale, o meglio di far salire l'avanzo primario, cioè l'eccesso di entrate rispetto alle spese vive dello Stato, quindi esclusi i pagamenti sugli interessi. Quello invece viene dato in aumento, e quindi questo secondo me rende un po' i burocrati di Bruxelles, che poi tanto burocrati non sono, più nervosi di quanto dovrebbero essere. Più nervosi. La ringrazio, grazie al professor Francesco Daveri per essere stato con noi. Noi andiamo a chiudere qua questa puntata di Focus Economia di Pasquetta, che, come già vi dicevo in apertura, chiude con un po' di anticipo invece che le solite e consuete 18.30. Domani torna Sebastiano Barisoni, invece per quanto mi riguarda mi ritrovate alle 13 con Effetto Giorno, così come eravamo in onda oggi con Effetto Giorno. I ringraziamenti vanno a Barbara Bianchi in assistenza in redazione, Valeria Bernardi in regia, e come sempre a tutti voi per l'ascolto. A sentire quello che abbiamo sentito sul traffico, non posso che augurarvi buon viaggio, sperando che lo sia davvero. Buonasera. Radio 24. La passione si sente.